Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it. In primo piano. Buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa. Oggi cominciamo con Financial Times, che ha tre notizie, due delle quali in particolare non trovano alcuno spazio sui quotidiani italiani. La prima riguarda le proteste anti-Putin, anti-Cremlino, che ci sono in questo momento in Russia, nella parte est della Russia. E naturalmente, visto la forza con cui Putin sta governando la Russia e anche con il recente voto che gli ha permesso di prolungare oltre quello che era previsto per legge il suo mandato di presidente, è abbastanza importante, perché comunque la Russia resta una superpotenza. E appunto Financial Times mette questa fotonotizia con un articolo su tutte le proteste anti-Putin che ci sono nel paese, spesso sopite o che appunto ai quotidiani internazionali arrivano così a corrente alternata. Il titolo principale però riguarda le prossime mosse dell'amministrazione Trump su TikTok, e in particolare su ByteDance, che è la società che controlla questo social network TikTok, sapete, molto diffuso tra i giovani, in particolare tra gli under 18, anche in Italia. È stato già bloccato in India, c'è un problema di protezione dei dati, questa è la tesi di Donald Trump. Sta indagando anche la parte del Ministero dell'Economia, e quindi Steve Mnuchin con il Committee on Foreign Investment in the USA, quindi una commissione per gli investimenti stranieri negli Stati Uniti, su questa questione del controllo dei dati. Microsoft ha fatto un'offerta, a Donald Trump questo sembra non bastare, ma secondo Financial Times l'amministrazione Trump sarebbe pronta anche ad agire su altri gruppi cinesi. E poi c'è un titolo subito sotto quello principale che riguarda il Recovery Fund, ma per una volta non per le condizioni che verranno imposte, chieste all'Italia, di cui siamo molto consci, cioè il bisogno di presentare un piano che riguardi le riforme che il nostro paese ha bisogno. Qui c'è l'allarme della Francia, o meglio la dichiarazione della Francia di ieri, dei vertici francesi: questo recovery cash, cioè i fondi del Recovery Fund, devono essere legati al rispetto per i valori democratici dell'Unione Europea. Il riferimento è in particolare a quello che sta succedendo in Polonia, dove, sapete, con le recenti elezioni è stato confermato il presidente precedente, anche se con un margine molto piccolo rispetto allo sfidante, il sindaco di Varsavia, ma comunque è stato confermato. E anche in Ungheria, l'Ungheria di Viktor Orban, ci sono degli oggettivi problemi di democrazia. Da Financial Times vi segnalo due approfondimenti sull'America. Uno è l'analisi delle possibili scelte di Joe Biden come vicepresidente per la corsa alla Casa Bianca. Aveva detto fin dall'inizio che avrebbe scelto una donna, così è, però per ora la rosa dei nomi è molto ampia. C'è anche Elizabeth Warren, che era tra l'altro era una delle sfidanti di Joe Biden per la nomination del Partito Democratico. Ce ne sono altre 8 e la riserva dovrebbe essere sciolta a breve. Vi segnalo un bel ritratto di Andy Owen, che è l'amministratore delegato di Herman Miller, che è un colosso americano dell'arredamento per uffici, e dice come trasformare questa crisi in un vantaggio. Il riferimento naturalmente è ai cambiamenti inevitabili che avranno gli uffici di tutti i paesi, naturalmente non solo quelli degli Stati Uniti, ma anche quelli dei paesi europei, per gli effetti a medio termine del ricorso al lavoro da casa o allo smart working vero e proprio, che vuol dire appunto semplicemente lavorare per obiettivi e non importa da dove, quindi il ruolo sempre meno importante degli uffici. Un altro approfondimento sull'America, questo è il Big Read, quindi una pagina intera dedicata a pagina 15 di Financial Times, a quell'allarme lanciato da Donald Trump sulla possibilità che ci siano dei brogli se le elezioni di novembre si svolgeranno anche con dei voti via posta. E quindi la domanda che si fa a Financial Times è: gli Stati Uniti possono avere una fair election, cioè un'elezione giusta, un'elezione senza brogli? Il Sole 24 Ore invece, come sapete, il numero del lunedì è un numero di approfondimento, e l'approfondimento principale di questa settimana è sulla cassa. Zero contributi e nuova cassa per arginare l'allarme lavoro. E questo naturalmente riguarda il decreto agosto, e sono in arrivo nuove misure anti-emergenza, dagli interventi sugli ammortizzatori, cioè la cassa integrazione guadagni, allo sconto al 100% sulle assunzioni per 6 mesi. Ci lasciamo un attimo però per un primo aggiornamento sulla viabilità. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta In Primo Piano. Rieccoci, ancora buongiorno, buon lunedì da Giulia Crivelli. Dicevamo, l'approfondimento del Sole 24 Ore è sulle misure ancora da precisare, in realtà, del decreto agosto. E poi c'è un altro approfondimento su quello che invece è il super bonus per le riqualificazioni edilizie, professionisti in corsa per il 110%, oltre a ingegneri, architetti, certificatori energetici, spazio a commercialisti e consulenti per far partire i lavori agevolati con asseverazioni e visti di conformità. Siccome in questo periodo estivo, queste 5 domeniche di agosto, non ci sentiremo per la rassegna stampa dei quotidiani, quindi abbiamo mancato l'appuntamento con il breviario di Gianfranco Ravasi, che è ogni settimana in copertina sulla domenica, ve lo leggo perché a me è mancato questa lettura, spero anche a qualcuno di voi, ma molti di voi saranno andati probabilmente a leggerlo sul giornale, ma ve lo leggo comunque. Era in prima pagina sulla domenica del Sole 24 Ore di ieri. Si intitola questa settimana La Trota, e la citazione è un haiku di Basho. Haiku, sapete, sono quelle brevissime poesie giapponesi, e la citazione è questa: guizza la trota sul fondale, le nuvole scorrono, me ne vado, simile a una striscia di sogno come la Via Lattea. Sono solo 17 sillabe a comporre l'haiku, un mini genere poetico giapponese che ebbe in Basho, poeta del XVII secolo, il massimo creatore. È quindi una folgorazione che squarcia la tenebra e il silenzio e presenta un'intuizione, una sensazione, un'esperienza profonda col minimo delle parole. È anche il caso del testo da noi citato, che la traduzione ha necessariamente allungato e diluito. L'accumularsi delle immagini è simile a un'iride, il cui colore poetico fondamentale è quello della malinconia. La vita è come il veloce guizzare di una trota su un fondale limpido. È il lieve fluire delle nuvole spinte dal vento, è una striscia quasi filmica di scene sognate che si dissolvono al risveglio. Ma alla fine c'è un'ultima immagine che riscatta l'evanescenza della vita, è l'irrompere della Via Lattea, che è anch'essa una scia ma fatta di stelle. L'esistenza è sì fragile e caduca, ma può brillare con una luce che guida altri nella notte. Il Corriere della Sera ha una foto, anche perché all'interno poi ci sono molti approfondimenti, con un'intervista a Renzo Piano, che ha donato il progetto per il nuovo ponte, quindi molti approfondimenti sul ponte, il nuovo ponte dopo la ferita, oggi alle 18:30, l'avete sentito anche nel GR, l'inaugurazione, ci sarà anche la diretta qui su Radio 24. Il ponte si chiama, alla fine è stato battezzato San Giorgio come il santo patrono della città di Genova. Il titolo principale però del Corriere della Sera è dedicata, l'avete sentito, al caos che c'è stato nei giorni scorsi per l'ennesimo, potremmo dire, perché ne abbiamo visti tanti durante l'emergenza, l'ennesimo strappo tra governo e regioni, questa volta ha riguardato, lo sapete, i treni. Ieri si è espresso anche il Premier Conte, il Corriere della Sera ne dà conto con queste due parole: Conte, due punti, prudenza. La domanda a cui non si riesce ad avere una risposta, io ho scorso tutti questi editoriali, queste cronache, con naturalmente le importanti cronache dei disagi enormi subiti dai passeggeri che avevano prenotato, hanno visto i loro biglietti annullati all'ultimo momento. La domanda a cui non si riesce a rispondere è: ma come è potuto succedere che il ministro della salute Speranza non avesse saputo per tempo in che modo praticamente venissero adottate le nuove misure dell'ultimo decreto, con il ministro dei trasporti De Micheli, che secondo il retroscena ha poi dovuto appunto ascoltare le rimostranze di Speranza al telefono, ci si chiede davvero, in un momento come questo, su un provvedimento come questo, i due ministri competenti, De Micheli e Speranza, parlarsi prima no, perché la figura è veramente brutta. In ogni caso non è risolta la situazione, perché in particolare Lombardia, Liguria e Piemonte e anche altre regioni e anche il Veneto proseguono in una linea diversa da quella del governo, cioè vogliono comunque allentare questi limiti al numero di posti occupati sui convogli. A proposito di prudenza, dal Corriere della Sera in prima pagina vi segnalo l'intervento di Ilaria Capua, la virologa, intitolato Le cautele necessarie, ma ancora più interessante, poi lo trovate tutto a pagina 38, l'intervento di Sabino Cassese, che sono 20 anni che cerca di spiegare come si potrebbero fare le riforme della pubblica amministrazione per snellire la burocrazia, che è la vera zavorra, una delle zavorre del nostro paese, e qui ci riprova le riforme senza costi. Trovate poi l'articolo a pagina 38, vi leggo soltanto le prime righe per darvi un'idea di come appunto Cassese continua a ribadire, numeri alla mano, quali siano le difficoltà del nostro paese e come si potrebbe anche, dice, a costo zero per i primi provvedimenti, cercare finalmente di alleviarle, di affrontare seriamente questo problema. Scrive Cassese: per aprire una gelateria sono necessari fino a 73 adempimenti con 26 enti diversi e un costo di 13.000 euro, secondo un'accurata ricerca svolta dalla Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa. I 6 miliardi del contratto di programma con l'ANAS dovevano essere erogati entro 90 giorni, ne sono passati più di 900. Visto che appunto ieri non ci siamo sentiti, ma il supplemento dedicato alla cultura del Corriere della Sera lo trovate in edicola tutta la settimana, la lettura affida come sempre la copertina a un artista, questa settimana è Lino Mannocci, ma vi segnalo, perché mi ha molto colpito, è una mia antica passione, sapete che ogni settimana la lettura ha una sezione graphic novel, questa settimana sono due pagine di José Muñoz, che tra l'altro è un autore di fumetti e di storie illustrate, nato a Buenos Aires nel 1942, ma da molti anni vive tra Milano e Parigi, e questo è uno dei suoi personaggi più famosi, Alex Sinner, creato insieme a Carlos Sampaio, è un investigatore, è appena apparso per l'editore Oblomov L'età del disincanto, Alex Sinner integrale, il volume 2 di 2 di questa raccolta delle storie, e rigorosamente in bianco e nero, che come sanno tutti gli esperti di fumetti è la tecnica forse più difficile, perché naturalmente in assenza del colore bisogna essere ancora più bravi. Più forte di carta e inchiostro, queste due pagine ospitate dalla lettura in edicola questa settimana. Supplemento dedicato all'economia del Corriere della Sera, in copertina c'è Maria Paola Chiesi della Fondazione Chiesi, che dice: il mondo non sarà più come prima, dobbiamo crescere per farlo è decisiva la sostenibilità. La Repubblica ha un approfondimento invece in prima pagina dedicato in particolare alla Lega di Matteo Salvini. Sapete, sono in corso alcuni cambiamenti, c'è il meeting della Lega a Cervia dove ieri è intervenuto Matteo Salvini, scrive la Repubblica: domani scompare il Carroccio e nasce il Partito Nazionale, ma questi dati raccolti dalla Repubblica, un terzo dei vecchi militanti, quelli della Lombardia, lascia la tessera, il malessere della base padana in cerca di altri leader, e Giorgia Meloni strappa sempre più compensi. Ma la foto è dedicata alla vittoria di Hamilton ieri al Gran Premio di Silverstone, l'avete sentito nel GR, perché è arrivato tra l'altro al traguardo con una gomma praticamente distrutta, quindi con tre ruote funzionanti, e secondo molti insomma sarebbero bastati poche altre centinaia di metri e veramente la macchina non avrebbe potuto continuare. L'impresa di Hamilton vince senza una ruota. In prima pagina anche il rientro di SpaceX, avete sentito nel GR anche la voce del cronista che diceva: welcome back to planet Earth. Earth, thank you for flying SpaceX, che naturalmente era un modo anche scherzoso di richiamare quei messaggi, quegli annunci che vengono fatti quando si atterra su un aereo normale, quindi grazie per aver volato, il nome della compagnia aerea qui SpaceX, e poi welcome back to planet Earth, bentornati sul pianeta Terra. Con la Repubblica, come ogni settimana in edicola Affari e Finanza, come ogni lunedì, l'approfondimento di copertina è dedicato al tema del demografico. Sapete che noi abbiamo un drammatico problema di calo delle nascite, culle vuote, Italia a picco. Ogni anno nascite in calo, il Covid peggiorerà le cose, produttività, consumi, PIL, pensioni, la denatalità è la prima emergenza economica. Poi vi cito la Gazzetta dello Sport, perché con ieri la fine del campionato, il più strano probabilmente che si sia mai vissuto, con l'interruzione che c'è stata causa pandemia, ma ora la polemica è tutta intorno all'allenatore dell'Inter Conte. Conte ora basta, sapete che il tecnico dell'Inter, l'Inter è arrivata seconda in questo campionato, vinto dalla Juventus, e sapete che non ha di fatto festeggiato, ha attaccato la società e ha detto di essere stato lasciato solo nei momenti cruciali. Conte ora basta, c'è il rischio divorzio, titola la Gazzetta, il piano B è Allegri, ex allenatore della Juventus. Antonio invece pensa la Juve sarebbe in effetti una bella giostra di allenatori. La Stampa, decreto agosto, ecco il bonus consumi, quindi anche in questo caso un focus su tutti questi nuovi provvedimenti, in particolare fiscali, che sono contenuti nel decreto agosto. La foto però è quella del ponte, che è stato illuminato con i colori della bandiera italiana, quindi verde, bianco, rosso, il miracolo di Genova, che oggi inaugura il ponte San Giorgio. Tra l'altro, anche in questo caso, a proposito delle misure fiscali, vi segnalo l'approfondimento di Stefano Lepri: i sussidi non sono riforme. Come avete sentito anche nel GR, si ipotizzano anche aiuti per l'acquisto di elettrodomestici, per spese di ristorante, per abbigliamento, soprattutto per chi pagherà con la carta di credito o con moneta elettronica, insomma carte di credito o bancomat, quindi di credito, di debito. E sono di fatto appunto misure che non aiutano, secondo quello che sostiene l'economista Stefano Lepri, la crescita, ma sono appunto una forma di sussidio. Ci lasciamo però un attimo, sentiamo anche gli aggiornamenti sul meteo. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, eravamo sulle prime pagine, ce ne mancano ancora alcune. Il Messaggero apre sulla stretta che si avvicina per i voli. Infatti giovedì si riunisce il CTS, il Comitato Tecnico Scientifico istituito all'inizio di questa emergenza pandemia, che si riunirà giovedì appunto per chiedere distanziamenti anticontagio per tutti i trasporti pubblici. Quindi non sappiamo ancora bene, c'è in atto uno scontro regioni-governo per quanto riguarda i treni, potrebbe aprirsene un altro per quanto riguarda gli aerei. La foto è dedicata al ponte, in realtà non la foto del nuovo ponte, ma del ponte Morandi. Ricorderete tutte quell'immagine agghiacciante del camioncino della Basco che ebbe la fortuna, il destino di fermarsi a pochi metri dal punto in cui il ponte si spezzò. E approfitto anche, e grazie agli ascoltatori attentissimi che mi segnalano, che è stato chiamato San Giorgio non in onore del patrono della città di Genova, che è San Giovanni Battista, ma per la croce di San Giorgio, che è la bandiera di Genova. Così questo, la mente mi gioca questo scherzo. Io in realtà adoro Genova, ho una visione quasi focaccio-centrica e pesto-centrica della vita, quindi perdono a tutti i genovesi. Appunto il ponte si chiama San Giorgio e il patrono della città è San Giovanni Battista. Vi segnalo dalla prima pagina del Messaggero anche un tema che ancora una volta sottolinea le disparità tra il nord e il sud del nostro paese. Sapete che nella discussione per mettere a punto il recovery plan, che servirà per avere i soldi del recovery fund si parla molto di, della differenza che ancora ci sono di sviluppo e di tutti gli indicatori sociali tra il sud e il nord del nostro paese, e ora scopriamo senza il tempo pieno al sud si va a scuola un anno in meno. Pensate, al meridione fondi per fare 27 ore a settimana, a Milano garantite 40 ore al 90% delle famiglie. Il tempo scuola rispecchia la spaccatura tra nord e sud. Nella scuola primaria la preferenza per il tempo pieno è innegabile, ma se a Milano il 90% ha accesso al tempo pieno, a Palermo solo il 4,5% ha questa possibilità. Di fatto al sud si va a scuola un anno in meno. Marco Rossidori, esperto di politiche educative, dice: i fondi europei sono un'occasione storica per accorciare le distanze educative. Trovate poi l'articolo a pagina 8 del Messaggero. E visto che abbiamo appena parlato di emergenza denatalità, è chiaro che se i genitori devono occuparsi dei figli che non hanno il tempo pieno a scuola, è l'ennesimo disincentivo appunto ad averne altri di figli, ma anche cioè, questo si lega anche a un altro problema, perché poi le cose sono sempre collegate, cioè la scarsa occupazione femminile, che sapete al sud è ancora più bassa rispetto al nord, e comunque l'Italia rispetto ad altri paesi europei ha ancora un tasso di occupazione femminile più basso. Il Giorno apre su il caos delle regole treni, aerei, bus, e poi c'è in prima pagina un'intervista a Rino Rappuoli, che è direttore scientifico di GSK Vaccines, che è un'azienda di Rosia in provincia di Siena, e dice: abbiamo il farmaco anti-Covid. Luminare della ricerca medica, viene definito dal Giorno, pronto un anticorpo da iniettare, produzione entro l'anno. Io questa prima pagina me la tengo da parte, perché vedremo se poi succederà. Credo che in un momento in cui, sappiamo, 35.000 morti, ancora tanti contagi, la paura di una seconda ondata in autunno, io spero che nessuno scienziato in piena coscienza dica queste cose, che naturalmente portano a tante speranze, senza poi che queste abbiano una vera base scientifica. Comunque l'intervista la trovate a pagina 6, ecco il farmaco che ferma il Covid, produzione industriale entro l'anno. Il Fatto Quotidiano titola sul ponte di Genova, con un taglio molto interessante, che è l'intervista al procuratore capo di Genova Francesco Cozzi, che ha fin dai primi giorni, lo ricorderete, del crollo il 14 agosto del 2018, ha preso in mano questa inchiesta e poi l'ha seguita, e dice: 15 anni di incuria e violazioni, quelle precedenti al crollo naturalmente, sul ponte niente prescrizione. E poi all'interno due pagine richiamate in copertina, molto interessanti anche se anche molto dolorose, le pagine 10 e 11, da Embraco ad Alcoa, la via crucis del lavoro. Governi diversi, quattro ministri uno dopo l'altro, Guidi, Calenda, Di Maio, Patuanelli, ci sono 28 casi attivi da oltre 7 anni e sono coinvolti 300.000 lavoratori. L'intervista, vi dicevo, al procuratore capo di Genova la trovate a pagina 4. E per quanto riguarda la revoca, dice: è legittimo che la politica non aspetti i tempi dei processi. Ricorderete, fu una delle prime dichiarazioni del premier Conte, che pochi giorni dopo il crollo del ponte disse: a questo punto la revoca è necessaria, la politica non può aspettare i tempi della giustizia. E il procuratore Cozzi sembra in linea con queste dichiarazioni di Conte. Il Giornale, guerra tra scienziati, fermano pure i treni per dispetto a Zangrillo. Tra l'altro c'è un'intervista poi di cui vi leggerò una parte a Zangrillo sulla Verità. Zangrillo è il primario di terapia intensiva qui del San Raffaele a Milano. Il Giornale scrive: dietro fronte del governo per non smentire lo stato d'emergenza, che ricorderete sicuramente settimana scorsa è stato prorogato, e vogliono spargere immigrati per l'Italia. A questa emergenza che abbiamo detto nel weekend è stata soprattutto sui treni, ma potrebbe anche essere da giovedì, quando poi abbiamo visto si riunisce il comitato tecnico scientifico, il caos potrebbe estendersi ai trasporti aerei. La Verità, vi dicevo, colpa dei migranti, un contagio su quattro. Alla faccia di Lopalco, il Covid non viaggia solo in prima classe, nel tentativo di tirare la volata all'invasione. Il ministro Boccia, il ministro per le autonomie regionali, ammette che la percentuale degli infetti tra gli stranieri è altissima, un dato confermato anche dal sociologo Ricolfi. Che titolo abbia un sociologo per parlare di contagi? Non so, ditemelo voi. Il governo sbaglia tutto perché si fa guidare da preoccupazioni ideologiche. La foto è dedicata a questo, quello che viene definito, e così sicuramente è stato, delirio sui binari grazie a questi due. Questi due sono Paola De Micheli, ministro delle infrastrutture, e Roberto Speranza, ministro della salute. Ma vi dicevo, l'intervista di Luca Telese, che poi in parte leggeremo, la trovate a pagina 11, richiamata in prima pagina, intervista a Zangrillo, i bollettini, mistificazioni, positivo non vuol dire malato. E poi, siccome oggi approda in aula la legge sulla omotransfobia, cioè per punire chi insulta gli omosessuali o in generale tutte le minoranze LGBT, l'intervento di Silvana De Mari, che è un medico ma sapete anche ha posizioni molto dure sull'omosessualità, e il suo articolo di oggi, che poi trovate a pagina 17, soltanto il cristianesimo frena l'eugenetica. Libero cioè invece apre su una intervista del condirettore di Libero Pietrasenaldi a Giorgia Meloni, presidente di leader di Fratelli d'Italia. Il virgolettato scelto per titolare l'intervista è «Mi indagheranno per troppi consensi». E nel sommario: «Così ho portato Fratelli d'Italia al 18%, Salvini a processo, finirò nel mirino anch'io. Se Fontana fosse del PD avrebbe metà problemi». E poi la profezia: «Conte non dura». Altra intervista, in questo caso di Gianluca Veneziani, a Marco Bassetti, che è un virologo, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino, quindi un infettivologo, scusatemi, direttore della clinica di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, l'infettivologo Bassetti giura: il virus non fa più paura, io negazionista, molti esperti sono inesperti. L'opinione invece, l'editoriale di Vittorio Feltri, è dedicato ai cambiamenti climatici, caldo e freddo sono soltanto delle opinioni, è una tesi di Vittorio Feltri da molto tempo peraltro. E poi sempre Gianluca Veneziani, che curiosamente ve lo segnalo così perché da giornalista mi salta all'occhio, in generale è buona regola non firmare due articoli nella stessa pagina, e per uno dei due noi giornalisti, se proprio dobbiamo segnalare che siamo gli autori di quell'articolo, usiamo la sigla, ognuno di noi ha una sigla. E in questo caso Gianluca Veneziani appunto ha due interviste richiamate in prima pagina, quella all'infettivologo è siglata, mentre è firmata quella che poi trovate a pagina 20 a Barbara De Rossi, l'attrice. Il virgolettato per titolare questa intervista è: anche gli uomini vengono molestati, basta demonizzarli. Il Foglio del lunedì, che sapete è una edizione di approfondimento, ospita un lunghissimo articolo di Enrico Bucci, che è uno scienziato secondo me interessantissimo e molto stimolante per la sua visione. È tecnicamente adjunct professor presso la Temple University di Philadelphia, dove conduce attività di ricerca sulla biologia dei sistemi del cancro, e ha fondato una piccola azienda dedicata all'analisi dei dati scientifici. Dall'inizio della pandemia firma per il Foglio la rubrica Cattivi scienziati, che è anche il titolo di un suo libro, tra l'altro pubblicato nel 2015, e qui ci parla. L'articolo è intitolato Viaggio al centro della pandemia, mutazioni genetiche, oscure caverne dell'Asia, caso, caos, mercati cinesi in città affollate, errori politici, impreparazione e super diffusori ignari, meno fuffa, più fatti, indagine antidemagogica sulla nascita e sulla diffusione di un virus che ha contagiato il mondo e non è ancora stato sconfitto. E c'è l'illustrazione di Macox, che per me, che sono un'appassionata di biologia, è stupenda. Ci sono due microorganismi con tanto di DNA, quindi il materiale genetico più evoluto, lo stesso che abbiamo anche noi, che prendono in giro il coronavirus, che sapete invece ha soltanto RNA. Guarda quello, va ancora in giro con l'RNA, ha scarso, gli dice l'altro, e il piccolo coronavirus dice eucarioti di M. Ma come per dire, sì, sarò fatto solo di RNA, ma come abbiamo visto posso essere molto pericoloso. Davvero credo che la biologia, se ci pensiamo, certo, se non si ha una formazione scientifica, può essere faticoso cercare di capire per la pericolosità di un microorganismo, ma credo che sia comunque interessante, visto che in Italia, così come ai tempi dei mondiali, ci sentiamo tutti CT e adesso ci sentiamo un po' tutti virologi, facciamo però lo sforzo di capire davvero quali sono, perché un virus può essere così pericoloso. Sempre dal foglio, in realtà dal foglio di ieri, che sapete, il foglio di, o meglio il foglio di sabato, che è una sorta di settimanale, e come supplemento al foglio sportivo vi segnalo un altro tema che sicuramente diventerà presto di attualità, perché il campionato è appena finito ma ne inizierà un altro. Nessuno sa come riaprire gli stadi, perché sapete che questa seconda fase del campionato, dopo l'interruzione, è stata giocata sì, ma a stadi chiusi al pubblico. Impianti aperti al pubblico con limitazioni? Il governo rimanda, FIGC e Serie A con poche idee. E ci lasciamo però un attimo per la seconda pausa sulla viabilità. In primo piano. Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e grazie naturalmente a tutti gli ascoltatori che stanno mandando messaggi WhatsApp o SMS al 349-238-6666 e anche naturalmente chi sta semplicemente, tra virgolette, ascoltando. Ho detto che non mi sembrava Luca Ricolfi titolato a parlare, essendo un sociologo, sulle questioni virologiche. Molti ascoltatori mi ricordano che è anche professore ed esperto di statistica, quindi conosce bene i numeri e perciò è super titolato a parlare anche di epidemia. E mi viene sempre in mente, quando sento parlare di statistiche, e tra l'altro c'è la recensione sulla Verità, sul giornale di oggi, di un libro proprio sulla statistica, quello che diceva Churchill, ma forse anche qualcuno prima di lui, che ci sono due tipi di bugie: le bugie e le statistiche. Questo perché? Perché ogni statistica va interpretata. Allora, io quello che volevo dire è che francamente mi sembra più autorevole un virologo o un infettivologo che interpreta una statistica che non un sociologo, ma è un'opinione e sicuramente, appunto, va dato merito a Luca Ricolfi di essere anche non solo un sociologo ma anche, appunto, un esperto di statistica. Andiamo alle pagine interne dei quotidiani in quest'ultima parte della rassegna. La sezione casa, ogni lunedì in edicola con Il Sole 24 Ore, approfondimento di Maria Chiara Voci sulla costruzione, ma anche riconversione magari di una casa green. Costruire green senza alzare i costi si può con digitale e prefabbricati. Le best practice dimostrano con un'attenta progettazione l'eliminazione degli sprechi in cantiere e il giusto calcolo delle esigenze energetiche, i prezzi sono simili a quelli dell'edilizia tradizionale. Quindi, un po' per sfatare il mito che costruire green o acquistare prodotti green o vivere una vita più attenta, con consumi e comportamenti più attenti all'ambiente, sia necessariamente più costoso. L'esperto risponde ogni lunedì in edicola con Il Sole 24 Ore, questa guida fatta di domande che arrivano al Sole 24 Ore e le risposte degli esperti del Sole 24 Ore, un focus anche qui sull'edilizia, interventi edilizi sulle parti comuni, il super bonus e gli altri sconti fiscali. Vi dicevo, questo piano per rilanciare i consumi, 2 miliardi ci sarebbero per i bonus a chi paga con la carta, ma le incognite sono le fasce di reddito e come avere gli sconti, perché il tema è sempre quello in Italia. Con il problema di evasione fiscale che abbiamo, individuare le fasce di reddito, o meglio legare alle fasce di reddito delle dichiarazioni appunto i bonus, per esempio, è sempre rischioso, perché sappiamo che ci sono molte malversazioni su questo. Come sapete, ogni volta che escono le dichiarazioni i dati sulle dichiarazioni dei redditi, si vede come siano soprattutto le persone a reddito fisso e i pensionati a pagare la maggior parte dell'IRPEF. E naturalmente ci sono anche molti altri super ricchi in Italia. L'approfondimento su SpaceX lo trovate anche sul Corriere della Sera. Missione compiuta, ieri il primo ammaraggio dopo 45 anni dell'era Apollo. Sapete, il nome Apollo era il nome dato a tutte le missioni, tra le quali quella che poi ebbe successo con l'approdo sulla Luna. Dragon si chiama Dragon questa navicella, segna il doppio trionfo di Elon Musk, il fondatore di Tesla, ma che è anche il finanziatore di SpaceX, tecnico sul concorrente Boeing, che invece è naturalmente un colosso aerospaziale, e politico sulla Russia. Questa storia invece la trovate su tutti i giornali, e anche sul giornale era in prima pagina, e la Stampa, che è il giornale di Torino, ha una pagina intera, e mi ha molto colpita, perché è veramente una storia triste, ed è questa: in overdose per alcol e droga, il figlio muore, il papà è grave. Era la storia di Samuele Ventrella e Gerardo Ventrella. Samuele, 25 anni, è morto, il padre invece, Gerardo, che ne ha 53, è in ospedale. 13 anni fa, appunto, Gerardo Ventrella, sono entrambi originali di Mirafiori Sud, aveva scritto un libro sulla droga, cercando di far capire al figlio, che all'epoca ovviamente aveva solo 12 anni, era molto giovane, quale rischio fosse il tunnel della droga. E alla fine, appunto, il ragazzo è morto, e Gerardo Ventrella, che in questo libro aveva raccontato la tossicodipendenza nella periferia di Torino, ma molti da retroscena si capisce che in realtà, nonostante il libro, nonostante le dichiarazioni, dal tunnel della droga lui padre non fosse mai uscito, e alla fine l'epilogo di questa storia. Invece di altro segno, quindi un segno sicuramente positivo, è la storia che racconta Gaia Piccardi, grande penna del Corriere della Sera per tutto quello che riguarda lo sport e i suoi protagonisti. A pagina 25 racconta il nostro pranzo con Federer. Vittoria e Carola, le ragazzine del tennis in terrazza, che sono diventate un simbolo di resistenza durante il lockdown perché palleggiavano da un terrazzo all'altro, hanno accolto il super campione per uno spot a finale ligure. E qui c'è la foto dove si sorridenti, al centro c'è Roger Federer, a lato le due ragazzine si toccano soltanto con i gomiti. E dal Corriere della Sera vi segnalo anche un approfondimento della sezione Corriere dell'Estate su Capri. Maurizio De Giovanni dice: paradiso via l'Iscafo, naturalmente Capri, che si può raggiungere con l'Iscafo. Il problema di Capri è averla così vicina. Se fosse alle Antille sarebbe il viaggio della vita, ma questa bellezza esagerata è a un'ora scarsa di nave. Poi, visto che abbiamo sentito parlare anche nel GR della Tunisia, di come il nostro governo, con il ministro dell'interno Lamorgese e il ministro degli esteri Di Maio, si sta muovendo, visto che la maggior parte degli immigrati in questo periodo arrivano dalla Tunisia, due pagine di approfondimento su Repubblica, pagina 8 e pagina 9. Nelle vie di Tunisi, racconta l'inviato a Tunisi Vincenzo Nigro, migrare in Europa è un nostro diritto. Questo è il virgolettato scelto dalla Repubblica. Naturalmente la ministra Lamorgese ha già detto che non è così, perché se si tratta di migranti economici non verranno accolti. E poi un'intervista al vice ministro dell'interno Matteo Mauri, quindi il vice del ministro Lamorgese, che è del Partito Democratico, dice: niente lezioni dal Movimento 5 Stelle, con quel paese serve il dialogo. Il riferimento naturalmente è all'annuncio, non mi spingo a chiamarlo minaccia, ma comunque è quello che ha detto il ministro Di Maio, che l'Italia potrebbe ritirare i 6 miliardi, poi ce ne sono altri 25 di aiuti allo sviluppo promessi alla Tunisia, se il governo non fa qualcosa per fermare questi sbarchi. Vi segnalo dalla Repubblica anche un'intervista che in realtà è la traduzione di un'intervista concessa a Die Welt, il quotidiano tedesco, di John Bolton, sapete, ex consigliere per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, poi licenziato da Trump, ha scritto un libro che non è ancora stato tradotto in Italia, che si chiama The Room Where It Happened, cioè la stanza dove tutto accadde. È uscito negli Stati Uniti il 23 giugno, ne abbiamo parlato anche a Effetto Mondo, è un libro che contiene molte critiche a Donald Trump, e in questa intervista dice: Trump è inaffidabile, ma Biden è debole dopo l'Ucraina. Sapete, l'inchiesta sull'Ucraina, che ha portato anche al tentativo di impeachment di Donald Trump, che avrebbe fatto, appunto, era accusato di aver fatto pressioni sul governo ucraino perché indagasse su Joe Biden e sul figlio. Un approfondimento di Daniele Mastrogiacomo, pagina 19 della Repubblica. Abbiamo parlato tanto l'anno scorso degli incendi in Amazzonia, e continua a bruciare l'Amazzonia. Così brucia il cuore verde del pianeta. Solo in luglio 6.000 roghi. più 28% rispetto al 2019, in particolare nella regione del Pantanal, incendi triplicati in un anno. Dalla stampa un approfondimento, sono quattro pagine, no, anche di più, sono sei pagine di approfondimento sul nuovo ponte di Genova, il ponte San Giorgio, La ferita e la rinascita, l'editoriale di Massimo Giannini, direttore della stampa, che essendo la stampa, come sapete, della stessa proprietà di Repubblica. E qui anche c'è un'intervista a Renzo Piano: è il ponte della nuova Genova, amatelo e durerà 1000 anni. Un'altra intervista molto interessante, visto che abbiamo detto che questo super bonus potrebbe riguardare anche l'abbigliamento, ma per ora non sappiamo esattamente se e come verrà dettagliato questo bonus per gli acquisti. Intervista a Stefano Beraldo, amministratore legato di OVS, la grande catena di, se vogliamo, un po' fast fashion all'italiana. È sicuramente un imprenditore e un amministratore legato illuminato. Ha fatto, prima del lockdown, naturalmente prima della pandemia, aveva fatto crescere OVS, che tra l'altro è leader in Italia per esempio per l'abbigliamento per bambini, e qui dice: online e negozi nei piccoli centri, così l'abbigliamento batte il virus. E dice appunto: amplieremo la rete dei punti vendita, magari non quelli giganteschi delle grandi città, ma quelli nelle città più piccole, e poi naturalmente con gli acquisti multicanale, cioè tutte quelle possibilità di intersezione tra l'acquisto fisico e l'acquisto online. È molto curioso, ho trovato, è una storia che trovate solo sul Messaggero, a pagina 11, Irlanda, la guerra dei fari, rivolta contro le luci a LED. Il governo vuole togliere le tradizionali lenti e gli abitanti, così rovinate il loro fascino. Dal Fatto Quotidiano vi segnalo, a proposito di incendi, questa è una notizia che non ho trovato su alcun quotidiano italiano ed è triste, tranne appunto il Fatto Quotidiano, ed è il reportage dall'Abruzzo. Qui, vabbè, il Fatto Quotidiano ha uno spunto molto polemico, perché c'è una foto del governatore dell'Abruzzo Luca Marsiglio in un ristorante a Pescara mentre i roghi divoravano i boschi intorno all'Aquila. Naturalmente sono tutti dolosi. L'Aquila dichiara un nuovo stato d'emergenza e Coldiretti ha detto: quindi serviranno 15 anni per ricostruire. Quindi gli alberi, le foreste, questi boschi che vanno in fiamme, che già solo pensarci fa male. Naturalmente anche tutta la fauna massacrata, decimata da questi incendi, e appunto nessuno ne parla. Ultimissima segnalazione prima di lasciarci. Ve la segnalo dal Giornale: la Grecia non è più isola felice, il turismo fa esplodere il Covid. Quindi il tema appunto che quando si aprono i confini, poi specie in una stagione come questa, inevitabilmente pare, in tutti i paesi che l'hanno fatto, pensate alla Spagna, sono saliti i contagi. Era l'ultima segnalazione per oggi, un grazie a Peter Bescapè in regia, ancora un buon lunedì a tutti da Giulia Crivelli. Vuoi firmare i tuoi contratti e documenti in modo sicuro e da qualsiasi postazione? Usa la firma digitale di Aruba. È l'equivalente di una firma autografa di fronte ad un notaio. Ha quindi pieno valore legale. Attivala adesso su aruba.it.